meek shall inherit the earth, and the wicked shall get his reward. Promise to give you the world, but don't listen to them boys, they are fraud. They'll never get the world. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي، يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي، قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي، ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي. لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي. أنت لم تمت أخي، عشت بنصي أخي، لن تختفي أخي، لا يتخلد اسمك في غزتي أخي. صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك، واصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك، مكون من جسد وتزوق طبقات اعداء السلام، مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك، احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة، ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي. جاوز الظالم من المادة، ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب، الا برجوع الارض ارض تناديكم. خدر المعادي بشد على الايادي الايادي مساعد مع حمو الموت قد مطابق بالصوت عبو رافض السكوت وصاحب عين الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف فيتوريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي فيتوريو إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض e 19 e 42 minuti primi in ascolto sempre dalle web frequenze di Radio Default. Andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi sulla Palestina occupata. Ricordiamo subito i contatti della radio: www.radiodefault.it, dove potete trovare le nostre iniziative, il nostro palinsesto e le varie i vari arretrati delle altre puntate delle nostre trasmissioni, insomma le nostre varie iniziative, i nostri documenti e via dicendo. Potete contattarci su Skype, radio.default, per fare domande, di intervenire in diretta o anche minacciarci, va benissimo. E scusate, ma qua i telefoni non ci cerca mai nessuno, ma i telefoni sono squillano solo quando siamo in trasmissione e scusate di nuovo e poi c'è la nostra pagina Facebook Radio Default, dove potete trovare, essere aggiornati in tempo reale su ciò che la radio trasmette e su ciò che sta avvenendo nel mondo. E ovviamente potete sempre venire a trovarci nei nostri studios di Genzano di Roma, in via Guido Baldi 56. Veniteci a trovare, potete partecipare in diretta alle trasmissioni, venire a conoscere la nostra non redazione e magari comprarvi, bervi una birra e finanziare così questa radio che non campa di aria ma campa delle sottoscrizioni di voi che ci ascoltate. E quindi puntata di Radio Cuffia ritorna con i suoi aggiornamenti, i suoi approfondimenti. Oggi parleremo del patto di riconciliazione tra Hamas e Fatah, però prima di parlarne andiamo con il nostro consueto giornale radio. Palestina pubblicata ai Nakba, il programma per tracciare la Palestina storica. Il 3 maggio scorso l'ONG Zohrot ha rilasciato la prima versione di ai Nakba, un'applicazione per telefonini che permetterà agli utenti di identificare su una carta della Palestina mandataria le città e i villaggi spopolati o distrutti dalle truppe paramilitari sioniste nel 1948. Il programma può essere scaricato in arabo, ebraico e inglese e punta ad essere uno strumento pedagogico per i giovani palestinesi che vogliono sapere di più sulla propria terra natia e per rendere coscienti gli occupanti sionisti dei villaggi che esistevano in Palestina prima dell'invasione coloniale. L'applicazione può essere scaricata dall'App Store di Apple. E Hamas non riconoscerà l'entità sionista. Lo scorso 3 maggio Abu Marzouk, dirigente del Movimento per la Resistenza Islamica, ha dichiarato che la sua fazione non riconoscerà l'entità sionista. Il partito ha recentemente siglato un accordo di conciliazione con Fatah, il cui presidente ha ribadito che rispetterà le tre condizioni fondamentali enunciate dal Quartetto per il Medio Oriente e che prevedono, oltre al riconoscimento dello Stato ebraico, anche la rinuncia alla violenza e l'accettazione di tutti gli accordi precedenti stretti con l'entità sionista. Abu Marzouk ha ribadito che la sua organizzazione rifiuterà questi accordi e qualunque altro accordo che neghi i diritti dei palestinesi e ha aggiunto che nelle recenti trattative di riconciliazione non si è mai discusso lo scioglimento delle brigate Zedin al-Qassam, il braccio militare di Hamas. E passiamo alla West Bank, dove sono stati degli spari contro la colonia di Psagot. L'esercito sionista ha dichiarato che mercoledì sera sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco contro una casa di Psagot, una colonia sionista illegale secondo il diritto internazionale. Nella nota si dichiara che i colpi sono stati sparati da un'arma automatica e che non ci sono stati feriti. Psagot è una colonia sorta nell'81 vicino alla città di Ramallah, su impulso dell'ex primo ministro ed omicida di massa Ariel Sharon, che mise a disposizione degli edifici una volta utilizzati dall'intelligence militare. E passiamo alla striscia di Gaza, dove un'azione terrorista affonda l'arca. In un comunicato ufficiale, gli organizzatori dell'Arca di Gaza hanno annunciato che un atto terroristico ha affondato la barca utilizzata dal progetto. All'alba del 29 aprile, il guardiano notturno che doveva sorvegliare il vascello ha ricevuto una telefonata in cui gli veniva intimato di abbandonare la nave, che dopo 10 minuti è stata dilaniata da un'esplosione che ne ha provocato il parziale affondamento. L'Arca di Gaza è un progetto legato alla coalizione della Freedom Flottiglia, che punta a rompere il blocco navale e l'embargo economico imposto all'enclave costiera dalle forze sioniste d'occupazione e dal governo egiziano. Il vascello sarebbe dovuto salpare con rotta verso Cipro carica di prodotti made in Palestina. E passiamo alle carceri, dove inizia uno sciopero della fame contro la detenzione amministrativa. Adamir, associazione in sostegno dei detenuti palestinesi, ha confermato che lo scorso 24 aprile è iniziato un nuovo sciopero della fame che coinvolge più di 100 prigionieri in detenzione amministrativa. Attualmente lo sciopero sta avendo luogo nelle prigioni di Ofer, Megiddo e nelle carceri nel deserto del Naqab e che non verrà interrotto fino a quando le autorità carcerarie non soddisferanno le richieste dei prigionieri che chiedono che la pratica della detenzione amministrativa venga rinnovata non più di una volta. La detenzione amministrativa è un istituto giuridico risalente al periodo del mandato britannico che prevede la possibilità di poter detenere per 6 mesi, rinnovabili all'infinito, senza prove chiunque sia sospettato di costituire un rischio per la sicurezza dello Stato sionista. Attualmente sono circa 200 i palestinesi detenuti con questa pratica barbara, di cui 9 sono membri del Consiglio legislativo. E passiamo agli aggiornamenti dall'entità sionista, dove la polizia arresta i manifestanti contro il servizio di leva. Il notiziario Arabs 48 News ha riportato che la polizia ha disperso una manifestazione contro i tentativi del governo sionista di arruolare i palestinesi con cittadinanza israeliana nell'esercito d'occupazione, arrestando 3 ragazzi. L'avvocato Hala Mahajna ha dichiarato che la polizia, dopo aver capito di avere di fronte dei palestinesi, ha fatto un uso sproporzionato della violenza, documentato da numerosi video. Il giorno prima, un gruppo noto come Non servirò nel tuo esercito ha rilasciato un comunicato in cui si esortava ad organizzare delle mobilitazioni di massa contro i tentativi dell'occupazione di dividere su basi settarie i palestinesi che vivono nei territori occupati nel 48, al fine di arruolarli contro i propri fratelli di religione musulmana. E l'ente israeliano per la terra continua gli sfratti dei beduini. Mercoledì 7 maggio sono stati diramati delle ordinanze di sfratto per alcuni edifici nel villaggio di Wadi al-Niam, nel deserto del Naqab. Gli avvisi sono stati affissi su una moschea, un'abitazione privata e un negozio e danno ai residenti 80 giorni per evacuarli. Gli abitanti palestinesi del deserto del Naqab, in gran parte beduini, stanno subendo delle politiche di pulizia etnica da parte dello Stato centrale. Lo scorso inverno il governo Netanyahu aveva approntato una proposta di legge che prevedeva la demolizione su vasta scala della maggior parte dei villaggi ritenuti abusivi, anche se preesistenti l'occupazione del 1948. Dopo una serie di grandi mobilitazioni, il piano, chiamato Power Begin, venne ritirato, ma le demolizioni evidentemente continuano su scala minore. E passiamo al Portogallo, agli esteri, dove un'azienda idrica termina la collaborazione con la Mekorot. Lo scorso 21 aprile l'EPAL, l'azienda idrica portoghese, ha annunciato la fine degli scambi tecnologici con la compagnia idrica sionista Mekorot, a seguito dell'ondata di proteste contro il ruolo che quest'ultima ha nell'apartheid contro i palestinesi. Questa decisione viene dopo dei fatti analoghi che hanno portato alla cessazione dei rapporti di collaborazione con l'azienda idrica olandese e quella argentina. E passiamo alle iniziative con il 15 maggio a Comunia, la NACPA di ieri e quella di oggi. Giovedì 15 maggio alle 16.30 a Roma, allo spazio occupato Comunia, in viale dello Scalo San Lorenzo numero 33, ci sarà un dibattito pubblico. La NACPA del XXI secolo, Yarmouk e Palestina. Si discuterà della situazione siriana con Cinzia Nakira, redattrice della rivista Euragensium, Domenico Chirico di Un Ponte Per, Iyad Hafez, presidente della comunità araba di Perugia, Ali, un rifugiato palestinese dal campo di Yarmouk, Damasco, Germano Monti del Comitato Romano di Solidarietà con il Popolo Siriano, Renato Scarola della Comune Umanista Socialista. Il dibattito verrà coordinato dal giornalista siriano Fuad Ruwayh. Ci sarà poi la proiezione del video realizzato dai rifugiati di Yarmouk appositamente per questa iniziativa e a seguire dalle 20.30 cena siriana-palestinese a sottoscrizione in via di Porta Labicana numero 56A. Ovviamente invitiamo a partecipare non solo alla cena ma anche al dibattito. E il giorno dopo ci sarà, il 16 maggio, ci sarà a San Lorenzo la manifestazione in ricordo della Nakba. E leggiamo il comunicato diramato dalla Rete Romana di Solidarietà col Popolo Palestinese, che dice che a Roma, venerdì 16 maggio, dalle ore 18, saremo in Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo per ricordare a tutti la grande catastrofe, al-Nakba in arabo, quando contemporaneamente alla nascita di Israele, nel 1948, centinaia di villaggi palestinesi furono distrutti e la maggior parte della popolazione palestinese cacciata dalle proprie case. Saremo in piazza anche per ribadire il diritto del popolo palestinese al ritorno nelle proprie terre e all'autodeterminazione, per chiedere la fine dell'occupazione israeliana, dell'assedio di Gaza, dell'apartheid e dell'occupazione sionista della Palestina, per sostenere la campagna BDS contro Israele e per sostenere la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Durante la giornata si alterneranno momenti di riflessione e interventi politici alle performance di alcuni artisti che con il loro prezioso contributo accompagneranno e sosterranno la lotta del popolo palestinese verso la libertà. E quindi noi ricordiamo il 16 maggio 18 a Piazza dell'Immacolata, quel di San Lorenzo. E chiudiamo le iniziative, il GR, con il tour europeo della Conferenza dei Giovani Arabi, le rivoluzioni arabe e la Palestina. Nel dicembre 2012 il Movimento dei Giovani Palestinesi, PYM, ha indetto la prima Conferenza dei Giovani Arabi per la Liberazione e la Dignità. Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti giovanili appartenenti a partiti e movimenti di tutti gli indirizzi ideologici, presenti nel Medio Oriente e Nord Africa, da Bahrain, Giordania, Siria, Libano, Palestina, Egitto, Tunisia, Marocco, Yemen, ma anche giovani palestinesi della diaspora, da Svezia, Danimarca e Stati Uniti. È stata la prima vera iniziativa regionale volta a coordinare la mobilitazione politica nel mondo arabo, con una partecipazione completamente trasversale e inclusiva e che ha infatti riscosso un largo successo in tutta l'area, anche tra le comunità arabe in Europa e in America. La conferenza ha ribadito che la lotta della Palestina e la lotta del mondo arabo nella sua interezza devono essere combattute in modo congiunto, nella piena convinzione che la liberazione della Palestina e la liberazione del mondo arabo dal neocolonialismo e dall'imperialismo, in qualsiasi forma essi si manifestino, sono intrinsecamente legate tra loro ed interdipendenti. Le importanti riflessioni emerse nella conferenza verranno presentate alle comunità palestinesi e arabe in Europa e a tutti i movimenti di solidarietà con un tour europeo tra il 19 e il 23 maggio. Tre giovani attivisti arriveranno in Italia a parlare delle nuove prospettive nella regione. Le tappe italiane saranno il 19 maggio a Milano, il 20 a Padova e il 22 a Roma. Informazioni più dettagliate sul tour verranno divulgate nei prossimi giorni. E i tre giovani che verranno rappresenteranno il PYM, il Palestinian Youth Movement, da Ramallah, Palestina, il Movimento 6 Aprile dal Cairo, Egitto, e il Movimento Jil Jadid, Nuova Generazione, da Tunisi, Tunisia. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale radio e noi, prima di passare all'approfondimento di questa settimana dedicato all'unità, all'accordo di riconciliazione tra Hamas e Fatah, ci sentiamo, facciamo un breve stacco musicale. Questo è il cantante credo egiziano Mostafa Rizk che canta Babelouk. باب النور في باب النور قعدت استنى جيتها وبتمرجح بحفل الشوق في باب النور ايه في باب النور قعدت استنى جيتها وبتمرجح بحفل الشوق ناس تيجي وناس ما تجيش وهي ليه ما هيش جاية وناس على عينها قافلة الشيش وناس بتنط في عينيا وابص لساعتي ساعتي والنصر أقول فاكرة يجوز ناسي أبص لساعتي ساعتي والنصر أقول فاكرة أكيد ناسية وعمري في المكان مسروق على قهوة في باب باب اللوق باب اللوق في باب اللوق هي هي في باب اللوق على يميني شباب بيغني للثورة وبنوتة تقول الست مش عورة على شمالي مظاهرة جاية من شبرا عجوز يصرخ يقول والله السنين غبرة يضيع صوته في كومة قش كما إبرة وابو بص لساعتي ساعتي والناس يا اقول فاكرة اكيد ناسية وعمري في المكان مسروق على قهوة في بابلوق بابلوق وناس تسألني عالكرسي وأقول محجوز تكشر قبل ما تمشي وتضرب بوس وبنت مسلوعة ترقص لواد كربوس وجرسون زي فرقع لوز يقول عايز كمان قهوة وأقول له يعود وابص لساعتي ساعتي والنصية اقول فاكرة اكيد ناسية وعمري في المكان مسروق على قهوة في بابي بحبل الشوق في باب اللوق ايه في باب اللوق قعدت استنى جيتها وبتمرجح بحبل الشوق وناس تيجي وناس ما تجيش e ritorniamo in onda. Questa è sempre Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi sulla Palestina occupata. Quella che abbiamo appena sentito era la canzone dell'artista egiziano Mustafa Rizk, Babelouk. E quindi passiamo all'approfondimento di questa settimana. Abbiamo visto infatti che a fine di aprile i due principali partiti palestinesi, Hamas e Fatah, hanno siglato un ennesimo accordo di riconciliazione e questo pare stavolta che sia l'accordo definitivo. Come nasce la divisione tra palestinesi? Possiamo dire che le radici sono presenti già dagli anni Ottanta, quando comincia a nascere quando nasce il movimento di resistenza islamico, appunto, che è la sigla del più noto Hamas, che si pone in contrapposizione con l'OLP, vista come troppo laica, e per alcuni aspetti rinunciataria di alcuni diritti dei palestinesi. Infatti nel 73 o 74, ora controlliamo, la conferenza dell'OLP aveva sancito 73, no, 74, aveva sancito come obiettivo tattico quello di stabilire un'autorità nazionale su una qualsiasi parte della Palestina che venisse liberata dalla resistenza. E questo fu poi l'accordo da cui poi fu la decisione da cui poi presero le mosse gli accordi di Oslo. Infatti cominciamo a parlare di un'autorità parastatale o semistatale sulla sostanzialmente su Gaza e la Cisgiordania, che erano state appena occupate, a differenza di tutto il resto della Palestina, che era stata occupata 20 anni prima, nel 1948. E quindi appunto si arriva agli anni 80 con la prima intifada, con Fatah, che ormai era avviata verso gli accordi che poi sono stati chiamati appunto accordi di Oslo, e con la firma di questi accordi, che appunto prevedevano un sostanziale riconoscimento di uno Stato israeliano nei territori occupati nel 48, Hamas si pone decisamente all'opposizione di questi accordi, e quindi anche del principale partito dell'OLP, che era il più o meno laico Fatah. Questa divisione è perdurata negli anni dell'intifada, è continuata anche durante gli anni della seconda intifada, e ha visto scambi di accuse da entrambe le parti, con Hamas appunto che denunciava il collaborazionismo di Fatah con l'occupazione, e Fatah che dal canto suo descriveva Hamas come una creatura di Israele. Entrambe le accuse sono in parte vere, infatti se non proprio tutta Fatah, diciamo quella sua maggioranza di destra che tiene le redini dell'autorità palestinese, ha oggettivamente collaborato con Israele e soprattutto con le sue forze di sicurezza, spesso arrestando e torturando i militanti del movimento di resistenza islamico e carcerando gli esponenti degli altri partiti, si pensi al Fronte Popolare e del Jihad Islamico, perché continuavano le loro azioni di resistenza. Dall'altra, l'accusa che Fatah mosse ad Hamas è vera solo in parte. Hamas non è stata una creatura israeliana, però possiamo dire che negli anni 70 e 80 manovra di reazione a un OLP che era sostanzialmente laica, che vedeva appunto il partito di Fatah come primo partito e i marxisti del Fronte Popolare come secondo partito, aveva avviato una politica che prevedeva la negazione delle autorizzazioni, ad esempio per aprire associazioni culturali, scuole o enti assistenziali che fossero laici, garantendole invece a organizzazioni islamiste, ponendo quindi più che islamiste, di carattere islamico, di carattere musulmano, di carattere religioso, e quindi ha creato, potremmo dire, in parte le basi per per una crescita del sentimento religioso in quella che era la lotta più laica del Medio Oriente. Resta poi il fatto che appunto grossa era la repressione contro i militanti laici palestinesi. E quindi quando spunta con l'intifada, quando spunta questa sollevazione popolare, spunta anche la sigla di Hamas, che però non possiamo definire totalmente, possiamo definirla come un burattino israeliano. E quindi queste sono le accuse che si muovono reciprocamente le due fazioni, ovviamente ricordiamo che durante gli anni 90 e negli anni 2000 numerosi sono stati i processi per terrorismo condotti dall'autorità palestinese contro chi faceva la resistenza, e ricordiamo anche ad esempio che questa repressione non era mirata soltanto ad Hamas, ma a tutto quello spettro di forze che invece la resistenza la facevano, a prescindere dal colore religioso o meno. Ricordiamo Ahmad Sadat, il segretario del Fronte Popolare, che è stato imprigionato in primis dai palestinesi, è stato tenuto per qualche anno nella prigione di Gerico e poi rapito da, dai sionisti, che poi lo hanno condannato ai suoi 30 anni di carcere. Però possiamo dire che con la morte di Arafat inizia anche un c'è il primo documento di una mezza riconciliazione tra le due fazioni. Riconciliazione in questo caso è forse un termine un po' eccessivo, però diciamo che potremmo dire che fu una mossa tattica di Fatah, di Hamas, che approfitta delle incombenti elezioni legislative e presidenziali per presentare una propria candidatura. Con la morte di Arafat finisce l'uomo simbolo nel bene e nel male, spesso in maggioranza più nel male che nel bene, della lotta di liberazione palestinese. Il Fatah si ritrova con a candidare il suo uomo forte, che è l'attuale presidente, che diciamo mancava del carisma di Arafat e mancava anche delle capacità politiche di Arafat, e quindi con l'accordo del Cairo del 2005 Hamas apre all'OLP e chiede la riforma dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e si avvia avvia proprio il proprio percorso elettorale, che viene coronato da un discreto successo, visto che nelle elezioni legislative, mentre nelle elezioni presidenziali viene eletto l'attuale presidente Mahmoud Abbas, nel 2006 le elezioni legislative vengono vinte in maniera preponderante da Hamas, che riesce a formare un proprio governo e un monocolore verde. All'inizio si vociferavano possibilità di un accordo, ad esempio, col Fronte Popolare, via dicendo. Riescono invece a fare questo governo monocolore, con a capo Ismail Haniyeh, che è l'attuale presidente, capo del governo della Striscia di Gaza, e comincia questa coabitazione abbastanza scomoda, che vede da una parte le pressioni interne tra appunto tra palestinesi di differenti fazioni, e dall'altra vede la pressione esterna di tutte i vari governi e organizzazioni internazionali che hanno sempre sostenuto le elezioni democratiche, hanno sancito la validità del voto nel 2006, ma quando hanno visto che al governo è andato qualcuno che a loro non piaceva, in questo caso il movimento di resistenza islamico, hanno deciso di isolare economicamente e diplomaticamente i palestinesi. E diplomaticamente perché ovviamente, ad esempio dall'Unione Europea, ma anche dagli Stati Uniti, Hamas è vista... è iscritta nell'albo delle cosiddette associazioni terroristiche, e quindi diceva i governi e le cancellerie europee hanno dichiarato di non voler avere rapporti con i terroristi, e quindi hanno interrotto ogni contatto diplomatico. Dall'altra c'è stato lo strangolamento economico. Abbiamo detto più volte da questi microfoni, abbiamo parlato più volte dell'economia delle ONG, che vede appunto una gran parte dell'economia palestinese sopravvivere grazie al settore dei servizi dati da queste organizzazioni non governative finanziate dall'esterno, dai paesi occidentali prevalentemente. E ovviamente il primo atto è stato di chiudere i rubinetti dei finanziamenti per le ONG che lavoravano in Palestina, e ciò ha significato mettere in ginocchio economicamente i palestinesi. In tutto questo si è inserito il segreto di Pulcinella del piano Dayton. Dayton era un generale statunitense che aveva approntato un piano di colpo di Stato da attuare con le truppe dell'autorità palestinese ai danni ovviamente di Hamas. La situazione procede in maniera tesa fino al 2007, quando alla fine le tensioni esplodono, le due fazioni si confrontano militarmente e si arriva alla divisione politica e geografica. Da una parte la striscia di Gaza governata da Hamas, che caccia via l'uomo forte di Al-Fatah, Mohammed Dahlan, un tizio davvero poco raccomandabile, e dall'altra la West Bank, in cui rimane al potere Al-Fatah. Ovviamente la divisione non è così netta, dentro la West Bank Hamas ha detenuto una fortissima prevalenza politica. D'altronde il suo successo è stato trasversale in tutti i territori palestinesi occupati nel 1967, e questo ha significato una forte repressione da parte delle autorità golpiste, dell'autorità nazionale palestinese, nei confronti dei militanti islamisti, a cui è seguita anche una conseguente repressione e criminalizzazione e messa al bando addirittura dei militanti di Al-Fatah nella striscia. E quindi questa è ciò che è successo, in sostanza una lotta fratricida tra fazioni palestinesi che prosegue di fatto fino a oggi con vari annunci di riconciliazioni, ma di questo ne riparliamo fra poco. Noi andiamo a fare un altro stacco musicale. Questi sono i Gultra Sound System, un gruppo tunisino che cantano Gululi. We'll be right back. حلمك سبع العالي طول وراني ناغو قدها وضي عيوني تان طول شمسي غابت في مشرقها E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Questi che avete sentito sono i tunisini Gultar Sound System, che cantavano Gululi. E torniamo invece a parlare di della riconciliazione tra Hamas e Fatah. Siamo rimasti con appunto la divisione geografica e politica tra Striscia di Gaza e West Bank tentativo di riconciliazione che ovviamente non arriva oggi. Ci fu già un'iniziativa siglata in Yemen nel 2008 e poi che però ebbe pochi risultati, cioè nulli risultati. Le due fazioni rimasero a governare due entità geografiche separate e ognuna che reprimeva l'altra fino a che non si arriva agli accordi del Cairo del 2011 accordi di maggio siglati due settimane prima che chi vi parla partisse per la Palestina, accordi che nacquero sostanzialmente dalla spinta delle grosse manifestazioni che vi furono il 15 di marzo del 2011, dove a seguito di una dichiarazione, della pubblicazione di un manifesto di un gruppo politico che si chiamava Gaibo, Gaza Youth Breaks Out, in cui in sostanza mandavano letteralmente a fanculo Hamas e Fatah e chiedevano la fine della divisione per la ripresa di un percorso resistenziale comune. Insomma, dopo questo manifesto vengono organizzate dai giovani palestinesi delle manifestazioni interfazionali, cioè trasversali alle varie fazioni, che hanno preso la testa della delle mobilitazioni palestinesi. Manifestazioni che sono state represse in maniera abbastanza dura da Hamas e Fatah, da Hamas a Gaza, tra l'altro con accoltellamenti e pestaggi, ma lo stesso ha fatto la Democratica Autorità Nazionale Palestinese con chi manifestava a Ramallah. Ovviamente ognuna delle fazioni accusava i manifestanti di far parte della fazione avversa. Questo era anche vero, ma era estremamente riduttivo, in quanto a quelle manifestazioni ha partecipato un settore estremamente trasversale della società palestinese. E quindi proprio sull'onda di questa del popolo che ha letteralmente messo il pepe al culo ai propri governanti, e anche sull'onda delle rivoluzioni arabe che avevano visto l'insorgere dei tunisini, degli egiziani, dei siriani, degli yemeniti al coro di "il popolo vuole la caduta del regime", e le due fazioni hanno pensato bene di fare questo accordo di pacificazione, che diciamo che è stato quello che ha avuto un po' più di eco mediatica e che sono stati firmati appunto il 4 maggio del 2011, in cui si tracciava una roadmap per delle elezioni e si comincia a parlare seriamente di riforma dell'OLP. Si ammorbidiscono gli attacchi di Hamas contro al-Fatah e si accetta la presenza di un presidente che è Abbas, però appunto in via transizionale, per cercare appunto di formare un governo di unità e poi arrivare a nuove elezioni. Accordi che tuttora sono rimasti a lettera morta, o meglio, nei propri comunicati la questione della riconciliazione è stata utilizzata in modi alterni. Quando è più forte Fatah, Hamas chiede la riconciliazione; quando Hamas si mantiene più forte, la riconciliazione la chiede Fatah. In questo caso, subito agli inizi, potremmo dire che l'iniziativa era di Fatah, che si trovava pressata dall'inflazione, dalla crisi economica, dal boomerang della richiesta di essere riconosciuto come Stato all'ONU, che ha portato poi Israele a tagliare, a non versare i soldi delle tasse all'Autorità Nazionale Palestinese, che così non riusciva a pagare i dipendenti pubblici e via dicendo. E quindi in quel momento, invece, con Hamas più forte, soprattutto dopo l'avvento al governo egiziano di Morsi, dei Fratelli Musulmani, un governo amico facente parte della stessa organizzazione internazionale, appunto è fatta a prendere questa iniziativa. Invece, con la caduta l'estate scorsa del presidente Morsi, che ha visto di nuovo una nuova stretta dell'assedio su Gaza, l'avvento di un nuovo presidente, il golpista generale Sisi, che ha impostato anche la propria campagna mediatica proprio contro i palestinesi, visti come terroristi, visti come quelli che provocano instabilità nel Sinai, accusati anche di aver programmato quell'operazione di liberazione dalle carceri nel 2011 dei prigionieri dei Fratelli Musulmani. Insomma, da grande astro della politica palestinese, Hamas è ricaduta in una debolezza abissale e quindi è ritornata a chiedere i colloqui diplomatici per la riconciliazione. A questo però ha fatto orecchie da mercante Fatah, che però si è svegliata ultimamente, e forse potremmo dire che questo risveglio deriva, come dal 2011, da una sorta di indebolimento reciproco. Hamas si trova nella situazione che abbiamo appena descritto, Fatah si trova anch'essa in una situazione di estrema debolezza, visto che si ritrova a portare avanti delle trattative diplomatiche con l'entità sionista, trattative che sono estremamente avversate dalla popolazione palestinese, anche dagli stessi di Fatah, tant'è che ogni tanto anche lo stesso negoziatore dell'OLP, che è un fedelissimo di Fatah, annunciava le proprie dimissioni dal suo proprio ruolo di mediatore, e quindi si ritrova si è ritrovata a capitolare anch'essa. Potremmo dire che questi ultimi 7 anni, ora noi quanto pare questa è la volta buona. Chi parla dice che secondo lui questa è la volta buona in cui si può raggiungere forse una riconciliazione e un governo di unità nazionale. Di certo la buona volontà a quanto pare viene ci sta, potremmo dire, cioè, è notizia di lunedì scorso che nella striscia di Gaza sono arrivate per la prima volta dopo 6-7 anni le copie di Al-Quds, che è un giornale legato ad Al-Fatah, che era stato bandito, e quindi Hamas ha permesso, a quanto pare sta allentando le fila della censura, oltretutto censura che non ha colpito solo questo giornale, ma ha colpito ad esempio l'estate scorsa gli uffici dell'agenzia di stampa Ma'an, che è stata accusata di ramare falsità sul conto del movimento islamico. Un po' meno forse da parte di Fatah, visto che una dichiarazione di un dirigente di Hamas ha rivelato che da quando è stato siglato questo nuovo accordo il governo dell'autorità nazionale palestinese ha messo in carcere 10 dirigenti di Hamas. Però appunto a quanto pare questa è la volta buona, però non diamo troppo peso ai documenti, perché come ricordiamo dal 2005 si sono susseguiti 6-7 documenti di riappacificazione. Quindi noi mandiamo un altro stacchetto musicale prima di concludere il nostro approfondimento su quest'unità. Vi mandiamo il gruppo rap di quelli che vengono chiamati palestinesi israeliani, noi li chiamiamo palestinesi che abitano nei territori occupati nel 48. Questi sono i Dam, che cantano con la rapper, con la cantante Amal Murkus, e cantano Se potessi tornare indietro nel tempo, canzone contro la violenza sulle donne. قبل ما تفضل ما كانت عايشة نسرد قصتها بالعكس من الجريمة للولادة جثتها قفزت من الحفرة لحفة الأرض طلعت العظمة جبينها وانبلعت بالفرد صدى صوتها صرخ وهي ردت عليك دموعها تصعد من الخد للعينين من ورا غيمة الدخان وجوه العيلة أخوها بلا خجل حط الفرد بجيبة لابو هزة بالمجراف ودهن عرق عجبينه بهزت راس اكتفى من القبر ومقاييسه جروها على السيارة هي تضرب أقدامها كعاصفة رمال تمحي أفر بعسادة دخلوها على البجاج مش عارفة لوين بس عارفة إنهم طلعوا ثلاثة وراجعين اثنين وصلوا البيت رموها بعنف على التخت صحوها بطريقة كانت تحلم نعكس حياتها علينا بركن نفهم هارب الساعة تتحرك من اليمين لليسار بتراجع خطواتها مثل اللي تاهت المسار نامت جاهزة كم من قرش للتاكسي تذكرة وجواز سفر تحت الوسادة الجواب خلي الأواعي بالخزانة بتلبس حياة جديدة وإذا سألوها لإيش الحقيبة واستأذنت للنوم قامت عن طاولة أكلت منيح مجبورة تمثل اليوم الأنف وقف نزيفه هيك مبين لهم بس الجرح طري قبل ما يثبتوها حتثبت لهم إمها عتبتها حياتك جنة صدقت لما ندوق الممنوع فيش إشي بتخبى ساعتين قبل عشا السماء انطرت لم صدمة ما لها خيار تأجل رن التلفون لو أرجع لو ترجعي بالزمن إيش كنت بتسوي كنت لك يا عمري. قبل ما تجاوب من سألت صار قصتها كان معايير بحياتها العكس. ايديها بالوجه طلب النجدة ايدين الحواليها بالوجه هم بيقرأوا الفاتحة ورقة الرزنة من قلبتهم لورا ساعة مسا نقاش يدرها اخوها قمر شلل دم بجري من شفايفها وبنصب الانف صوت لك من وجهها انطلقت ايدي لأول مرة بحياتها بترفض اما اعلنت بفرح بكرة بنعمك جاي يطلب اذا بمسك البوم حياتها وبقلب وبصطف صورة فيها اي مخدم موقف مستصحب صفحات بايدي تلسل الماضي ملطخ بدم وعيون الدمع بس وعدكم من الجريمة للولادة وجوهم غاضبة كأنه خبروهم بجريمة اجتكم بنت البداية e ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Questi qua erano i Dem che cantavano con Amal Mourcous, Se potessi tornare indietro nel tempo, If I could go back in time, canzone contro la violenza maschile sulle donne. Torniamo a parlare di unità palestinese. Abbiamo visto abbiamo visto le due principali fazioni palestinesi sono a quanto pare sembra che potrebbero arrivare a una definitiva riconciliazione e noi consideriamo positivamente il fatto che che finisca questa guerra fratricida tra le fazioni. Però ci sono dei però, appunto. Il problema è cosa fare, cioè, con questa riconciliazione. Cioè, si può parlare, abbiamo detto più volte da questi microfoni, ne abbiamo parlato anche più volte con i giovani palestinesi di Roma, che sintetizzano la questione della riconciliazione con una frase, potremmo dire, a effetto. Loro dicono, due minorenni non possono mettere incinta una donna anziana. Quindi due minorenni politici, in questo caso Al-Fatah e Hamas, non possono rendere feconda una vecchia organizzazione come l'OLP, che ha i suoi limiti, che ha rappresentato sicuramente in passato una punta avanzata della lotta di liberazione del popolo palestinese, ma che oggi si ritrova a essere sequestrata dalla ANP. Anche l'accordo di riconciliazione stesso, che prevede un ricorso alle elezioni del Consiglio legislativo palestinese, è una cosa che di fatto va a legittimare gli accordi di Oslo. Ricordiamo che il Consiglio legislativo palestinese è il parlamento, lo pseudo parlamento, che dovrebbe governare l'autorità palestinese, cioè quella sorta di protostato che dovrebbe amministrare la sovranità su Gaza e sulla West Bank, ma che di fatto la sovranità non la esercita, se non negli uffici dirigenziali e se non contro la popolazione palestinese molto spesso. E quindi ci sarebbe da chiedere, ok, vengono fatte queste elezioni e Hamas magari prenderà la sua maggioranza o la prenderà Fatah o si farà addirittura un governo giallo-verde di coalizione, ma per fare cosa? Cioè, all'interno delle istituzioni create da Oslo, che abbiamo sempre descritto da questi microfoni come forse una seconda Nakba, cioè una seconda catastrofe del popolo palestinese, una sorta di resa delle armi, che vantaggio può portare? Mi spiego, gli accordi, le istituzioni di Oslo servono appunto ad amministrare, sono quelle istituzioni transitorie che andrebbero ad amministrare uno Stato che ad oggi di fatto non esiste. Hai una contiguità territoriale a Gaza, che però vede il suo, i suoi confini con l'Egitto completamente chiusi, e non parliamo dei confini con l'entità sionista. Mentre ad esempio la West Bank è un grande arcipelago di isolotti a semisovranità palestinese, tutti smangiucchiati dalla crescente colonizzazione sionista. La stessa West Bank è divisa teoricamente in tre parti: una a totale sovranità militare e civile palestinese, una a sovranità militare sionista e civile palestinese, e uno sotto il controllo totale, tra l'altro le zone migliori della West Bank, sotto il controllo totale dell'occupazione, ma che di fatto rimangono lettera morta, perché l'occupazione può portare le sue truppe in qualsiasi territorio all'interno della West Bank, anche dentro Ramallah, la cosiddetta capitale. E quindi abbiamo, queste sono tutte istituzioni. Il Consiglio Legislativo Palestinese è un'istituzione che va a governare questa autorità, che di autorità ha poco. In arabo autorità e insalata si scrivono nella stessa maniera, e quella governata da Abu Mazen è quella che governa attualmente la West Bank, è più un'insalata che un'autorità sovrana. Dall'altra si ha un altro interrogativo: quale percorso resistenziale si può mettere in piedi? Perché oggi si può parlare di accordi, non accordi, tra l'altro le due fazioni hanno una visione abbastanza peculiare e singolare delle proprie, dell'accordo che hanno firmato, perché appunto abbiamo letto nel GR di Hamas che non rinuncia allo scioglimento delle ali armate, delle brigate armate, e che non riconoscerà mai l'entità sionista come uno stato ebraico, non riconosce proprio l'entità sionista. Dall'altra, Fatah dice sì, l'accordo di riconciliazione di certo non va a inficiare le trattative diplomatiche che ora stiamo portando avanti, quindi seppure ottenessero questa riconciliazione, non si capisce bene la leadership palestinese dove andrebbe a parare e su quali direttrici andrebbe avanti. Inoltre possiamo dire che il popolo palestinese spesso sta più avanti della propria dirigenza. Abbiamo sentito anche da questi microfoni i resoconti sulle mobilitazioni contro il piano Power, cioè una mobilitazione nata prevalentemente all'interno dei palestinesi cosiddetti israeliani, quei cittadini di serie Z che una soluzione due popoli, due stati taglierebbe fuori sia dallo Stato ebraico, che verrebbe finalmente sancito come Stato ebraico, sia da uno Stato palestinese che non li riconoscerebbe, e che però sono mobilitazioni che hanno coinvolto non solo la Palestina ma anche la diaspora, e sono state mobilitazioni di massa, spesso molto radicali, spesso slegate dalle precedenti fazioni, che sono tutte più o meno coinvolte e compromesse con gli accordi di Oslo, da Hamas, che si è presentata alle elezioni nel 2007, al Fronte Popolare, al Fronte Democratico, che è stato proprio il primo a teorizzare la soluzione dei due stati. E quindi questa mobilitazione scavalca il discorso di fazione, poi molti ci ricamano sopra anche sull'utilizzo che hanno fatto dei social network, il fatto che sono riusciti a portare la propria voce oltre le fazioni, oltre un OLP che ad esempio in queste ultime mobilitazioni contro il piano Power non se li è minimamente filati. E quindi la riunificazione è sicuramente un fatto positivo, ma finché questa riunificazione non avviene all'interno di un percorso nazionale, di un progetto nazionale di resistenza, che può essere violenta, non violenta, quelle sono tattiche che verranno, che si vedono sul momento a seconda delle forze in campo. Noi rimaniamo sempre convinti che alla fine della storia la Palestina si potrà liberare solo con la canna del fucile, ma a liberarla ce ne vorrà ancora di mobilitazioni violente e non violente, e soprattutto delle mobilitazioni che vadano a contestare l'occupazione, non alcuni suoi effetti, non la mobilitazione contro il muro di separazione, che ok, è un problema, ma se il muro di separazione invece di farlo intorno al villaggio della West Bank lo fanno invece nel territorio cosiddetto israeliano, sempre un muro di separazione hai che va a fare da a creare un ennesimo Bantustan. O le proteste contro l'apartheid idrica, che ovviamente è un grandissimo problema, ma non ma quello è un frutto dell'occupazione. E quindi sostenere questi movimenti e soprattutto andare a sentire, ad esempio, cosa dicono i movimenti palestinesi, i movimenti dei giovani palestinesi che saranno a Roma il 22 maggio, potrebbe essere interessante e forse potrebbe dare una ventata di novità a una politica palestinese che è brutta tanto quanto la nostra ed è vecchia e spesso gretta e meschina tanto quanto la nostra. Noi abbiamo parlato anche troppo, vorremmo chiudere questa trasmissione leggendo un comunicato, una dichiarazione che forse vale più di 100.000 accordi di riconciliazione tra Fatah e Hamas. Questo è il manifesto GAIBO, Gaza Youth Breaks Out, rilasciato nel gennaio del 2011, che recita: vaffanculo Hamas, vaffanculo Israele, vaffanculo Fatah, vaffanculo ONU, vaffanculo l'UNRWA, che sarebbe l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, vaffanculo gli Stati Uniti. Noi, i giovani di Gaza, siamo stufi di Israele, di Hamas, dell'occupazione, delle violazioni dei diritti umani e dell'indifferenza della comunità internazionale. Vogliamo urlare per rompere il muro di silenzio, ingiustizia e indifferenza, come gli F-16 israeliani rompono il muro del suono. Vogliamo urlare con tutta la forza delle nostre anime per sfogare l'immensa frustrazione che ci consuma per la situazione del cazzo in cui viviamo. Siamo come pidocchi stretti in due unghie. Viviamo un incubo dentro un incubo, dove non c'è spazio né per la speranza né per la libertà. Ci siamo rotti i coglioni di rimanere imbrigliati in questa guerra politica. Ci siamo rotti i coglioni delle notti nere come il carbone con gli aerei che sorvolano le nostre case. Siamo stomacati dall'uccisione di contadini innocenti nella buffer zone, colpevoli solo di stare lavorando sulle loro terre. Ci siamo rotti i coglioni degli uomini barbuti che se ne vanno in giro con le loro armi, abusando del loro potere, picchiando o incarcerando i giovani colpevoli solo di manifestare per ciò in cui credono. Ci siamo rotti i coglioni del muro della vergogna che ci separa dal resto del nostro paese, tenendoci ingabbiati in un pezzo di terra grande quanto un francobollo. E ci siamo rotti i coglioni di chi ci dipinge come terroristi, fanatici fatti in casa, con le bombe in tasca e il maligno negli occhi. Abbiamo le palle piene dell'indifferenza da parte della comunità internazionale, i cosiddetti esperti in esprimere sconcerto e stilare risoluzioni, ma codardi nel mettere in pratica qualsiasi cosa su cui si trovino d'accordo. Ci siamo rotti i coglioni di vivere una vita di merda, imprigionati dagli israeliani, picchiati da Hamas e completamente ignorati dal resto del mondo. C'è una rivoluzione che cresce dentro di noi, un'immensa insoddisfazione e frustrazione che ci distruggerà a meno che non troviamo un modo per canalizzare questa energia in qualcosa che possa sfidare lo status quo e ridarci la speranza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo tremare i nostri cuori per la frustrazione e la disperazione, è stata quando il 30 novembre gli uomini di Hamas sono intervenuti allo Sharek Youth Forum, un'organizzazione di giovani molto seguita, armati di fucili, con menzogne e violenza, buttando fuori tutti i volontari, incarcerandone alcuni e proibendo allo Sharek di continuare a lavorare. Alcuni giorni dopo, alcuni dimostranti davanti alla sede dello Sharek sono stati picchiati e altri incarcerati. Stiamo vivendo davvero un incubo dentro un incubo. È difficile trovare parole per descrivere le pressioni a cui siamo sottoposti. Siamo sopravvissuti a malapena all'operazione Piombo Fuso, in cui Israele ci ha bombardati di brutto con molta efficacia, distruggendo migliaia di case e ancora più persone e sogni. Non si sono sbarazzati di Hamas, come speravano, ma ci hanno spaventato a morte per sempre, facendoci tutti ammalare di sindromi post-traumatiche, visto che non abbiamo nessun posto dove rifugiarci. Siamo giovani dai cuori pesanti, ci portiamo dentro una pesantezza così immensa che rende difficile anche solo godersi un tramonto. Come possiamo godere di un tramonto quando le nuvole dipingono l'orizzonte di nero e orribili ricordi del passato riaffiorano alla mente ogni volta che chiudiamo gli occhi? Sorridiamo per nascondere il dolore, ridiamo per dimenticare la guerra, teniamo alta la speranza per evitare di suicidarci qui e adesso. Durante la guerra abbiamo avuto la netta sensazione che Israele voglia cancellarci dalla faccia della terra. Negli ultimi anni Hamas ha fatto di tutto per controllare i nostri pensieri, comportamenti e aspirazioni. Siamo una generazione di giovani abituati ad affrontare i missili, a portare a termine la missione impossibile di vivere una vita normale e sana, a malapena tollerata da un'enorme organizzazione che ha diffuso nella nostra società un cancro maligno, causando la distruzione e la morte di ogni cellula vivente, di ogni pensiero e sogno che si trovasse sulla sua strada, oltre che la paralisi della gente a causa del suo regime di terrore. Per non parlare della prigione in cui viviamo, una prigione giustificata e sostenuta da un paese cosiddetto democratico. La storia si ripete nel modo più crudele, non frega niente a nessuno. Abbiamo paura. Qui a Gaza abbiamo paura di essere incarcerati, picchiati, torturati, bombardati e uccisi. Abbiamo paura di vivere perché dobbiamo soppesare con cautela ogni piccolo passo che facciamo. Viviamo tra proibizioni di ogni tipo, non possiamo muoverci come vogliamo, né dire ciò che vogliamo, né fare ciò che vogliamo. A volte non possiamo neanche pensare ciò che vogliamo, perché l'occupazione ci ha occupato il cervello e ci ha occupato il cuore in modo così orribile che fa male e ci fa venire voglia di piangere lacrime infinite di frustrazione e rabbia. Non vogliamo odiare, non vogliamo sentire questi sentimenti e non vogliamo essere più vittime. Basta, basta dolore, basta lacrime, basta sofferenza, basta controllo, proibizioni, giustificazioni ingiuste, terrore, torture, scuse, bombardamenti, notti insonni, civili morti, ricordi neri, futuro orribile, presente che ti spezza il cuore, politica perversa, politici fanatici, stronzate religiose e basta incarcerazioni. Diciamo basta, questo non è il futuro che vogliamo. Vogliamo tre cose, vogliamo essere liberi, vogliamo poter vivere una vita normale e vogliamo la pace. E chiedere troppo? Siamo un movimento per la pace fatto dai giovani di Gaza. E da chiunque altro li voglia sostenere non si darà pace finché la verità su Gaza non venga fuori e tutti ne siano a conoscenza, in modo tale che il silenzio assenso e l'indifferenza urlata non siano più accettabili. Questo è il manifesto dei giovani di Gaza per il cambiamento. Inizieremo con la distruzione dell'occupazione che ci circonda, ci libereremo da questo carcere mentale per riguadagnarci la nostra dignità e il rispetto di noi stessi. Andremo avanti a testa alta anche quando ci opporranno resistenza. Lavoreremo giorno e notte per cambiare le miserabili condizioni di vita in cui viviamo. Costruiremo sogni dove incontreremo muri. Speriamo solo che tu, sì, proprio tu che adesso stai leggendo questo manifesto, ci supporterai. Per sapere come, lasciate un messaggio o contattateci. Vogliamo essere liberi, vogliamo vivere, vogliamo la pace. Libertà per i giovani di Gaza. E questo era il manifesto Gaza Youth Breaks Out, tradotto in quel del 2011 da il caro Vittorio Arrigoni, che da questi microfoni salutiamo. Noi chiudiamo qui questa nostra ennesima puntata di Radio Cufia. Noi la settimana prossima non saremo in onda perché staremo alle mobilitazioni per ricordare la catastrofe del popolo palestinese. Il 15 di maggio alle ore 16.30 a Comunia in Scalo San Lorenzo e il 16 dalle 18 a Piazza dell'Immacolata. Questa è radiodefault.it e questa è Radio Cufia. Buona libertà a tutti e a tutti, in Italia come in Palestina, come ai Castelli Romani. بتسعى في الوطن من اجل دمك اخي اركض بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لم تختفي